Ed ora che è passato il tempo, ed ora che è rimasto in me solo l'angoscia e l'amaro sentimento di aver amato e perso te, di questa vita vuota senza senso. Avrei voluto fermare il corso per fissarlo nel fatale istante in cui l'amor mosse a me lo sguardo tuo esitante. Pure m'accorgo nell'andare a rovistarmi dentro che nell'anima ancora rinvengo le disviate tracce della stella che il mondo mio pone al centro, e tale viva e tenace resiste come brace. Quanto slancio e quanta voglia di ricominciare, prenderti la mano e correre felice verso il mare, dalle onde farsi avvolgere, lasciarsi cullare, baciarti e dalle labbra calde assaggiare il sale. Vola la fantasia e vorrei che ti recasse dei miei giorni il caldo braccio ed il sapore del mio disio sì forte che il tuo cor stregasse dell'ardor che dolce sulle tue labbra muore. E per quanto ragione ancora insista e stia di libertà libera dir conquista, come l'orgoglio che muove a sanguinar ferita, sarà amor più forte a vincer la partita. Speme non tace, spargi ovunque seme, perché tu colga un germoglio nel tuo seno e perché possa rinascere un'altra vita insieme, possa anche tu cantare amore senza freno. Quanti giorni e quante notti son passati eppure non sbiadisce più il ricordo di tutte le tue cure. Tu sciolta tra le mie braccia nel limbo del piacere, quanto amore, quanta voglia di ricominciare.